AVS Media Demo. AVS Media Demo. Vedo altro che facce allegre, volti tristi come me. Niente più sorrisi nelle facce dei miei amici. Stupidi, soli, ma felici. AVS Media Demo. Opacità, lame affilate di chi mi colpirà. Cammino solo in cerca di una via d'uscita. La mia storia non l'ho mai capita, ma AVS Media Demo. AVS Media Demo.